Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, e naturalmente buon anno. Sono ancora giornate relativamente tranquille, magari qualcuno è ancora o sta per andare in viaggio, e magari qualcuno è ancora o sta per andare a Parigi. In questo caso segnalo un libro che davvero è utile per chi va a Parigi, una guida sui generis sentimentale intellettuale, di cui è autore lo scrittore Giuseppe Scarafia. Il libro si intitola L'altra metà di Parigi, la Rive Droite, pubblicato da Bompiani, 414 pagine, 32 euro. E questo libro ha una precisa collocazione geografica, l'avete sentito, la Rive Droite della capitale francese, ma anche temporale, perché riguarda il ventennio che va dal 1919 al 1939, quindi quello che iniziò esattamente o quasi 100 anni fa. Un ventennio nel quale la Rive Droite esplose e diventò l'autentico centro della vita intellettuale della capitale, per essere poi soppiantata dopo la guerra dalla Rive Gauche. In quegli anni, in quel ventennio, per molti Parigi era la sola città in cui si potesse vivere, e questo spiega la fortissima attrazione che Parigi esercitò su artisti, scrittori, giornalisti, musicisti, intellettuali di tutto il mondo. E questo libro è una flaneria, una passeggiata per quella Parigi, in un percorso diviso secondo i quartieri, che ci farà conoscere i luoghi e i protagonisti di quel periodo di cui adesso ci parla l'autore. Buonasera a Giuseppe Scarafia. Buonasera. Giuseppe Scarafia, innanzitutto ci spieghi come usare questa guida? La dobbiamo usare solo a Parigi o la possiamo sfogliare a casa nostra? La possiamo anche sfogliare a casa nostra, anche perché quella a Parigi sì, è la Parigi reale, ci sono tutti i posti, ma anche una Parigi che è persa nel tempo, una Parigi che continua a vivere nel tempo e nel passato. Infatti questa in qualche misura è una guida anacronistica, perché parla dei 20 anni, di 100 anni fa, fra il 1919 e il 1939. Perché ha scelto proprio questo periodo? Ma perché la Francia era stata cambiata da due eventi, cioè primo l'ondata di morti, 1.400.000 morti della prima guerra mondiale, e poi ancora più morti per l'epidemia di spagnola, e questo aveva galvanizzato le persone, aveva dato l'idea che la vita era breve, che passava velocemente, quindi bisognava goderla pienamente, e questo aveva anche accentuato il processo di emancipazione femminile, creando una popolazione giovane e piena di entusiasmo per la vita. E infatti lei ci spiega che in quel periodo, in quella Parigi, irrompe una sorta di nuova modernità. Quali sono i fenomeni, le caratteristiche più significativi di questa nuova modernità? La sensazione che tutto andasse riformulato, che la cultura precedente, che non aveva saputo evitare la tragedia della prima guerra mondiale, dovesse essere sostituita da qualcosa di nuovo, da qualcosa che rompesse con la tradizione. Ecco, la sua guida, come tutte le guide di Parigi che si rispettino, è ripartita per arrondissement, ed emerge da questa divisione che tutti i quartieri di Parigi, chi più chi meno, ma insomma tutti, erano straordinariamente vivaci. Allora si può immaginare di definire qualche zona di Parigi come particolarmente viva, importante in questo quadro di grande vitalità? C'era delle cose veramente strane, c'erano dei quartieri estremamente borghesi che invece racchiudevano dei personaggi come Marcel Proust, e viceversa c'erano dei quartieri periferici in cui troviamo dei russi disperati e poverissimi come la Zaitaeva, oppure dei personaggi errabondi come Simenon lo troviamo in Place de Vosges, nel Marais, che adesso è l'ultima moda, ma allora era veramente dimenticata dagli uomini e da Dio, oppure addirittura in una barca della Senna. A un certo punto Simenon si sentiva stretto nel limite della città, e allora doveva girare la Francia in barca, poi tornava a Parigi per festeggiare. Era un personaggio molto vivace, come emerge dalle sue righe, Simenon, anche organizzatore di feste abbastanza ardite, però sempre un grande professionista, non dimenticava mai il suo mestiere. Sì, Simenon faceva queste feste che spesso si trasformavano in orge, i vicini appunto protestavano perché incontravano gente discinta e ubriaca per le scale, ma Simenon guardava, non partecipava, dirigeva a volte le luci a riflettore sulle coppie più attive, e però anche se andava a dormire alle 2 o 3 di notte, il mattino dopo alle 6 si alzava come al solito per ricominciare a fare questi romanzi di cui scriveva centinaia di esemplari l'anno. Un altro personaggio molto popolare ormai presso anche gli italiani è Irène Némirovsky, che anche lei se la cavava quanto a feste. È un'Irène Némirovsky veramente inedita. giovane, capace di folleggiare insieme agli amici russi, con anche lo scatenamento dei russi, con questi russi che avevano invaso Parigi dopo la rivoluzione russa, ancora alla vigilia di quello che, della tragedia che l'avrebbe poi trasformata in quel genio che abbiamo scoperto che è. E a proposito dei luoghi, uno dei luoghi di incontro più mitici di quegli anni, anche più lussuosi, è il Bar Ritz. Che cosa ruotava intorno al Bar del Ritz? Al Bar del Ritz ruotava appunto questa atmosfera di lusso e di dissipazione. E uno degli esemplari così più tipici di quell'epoca era Scott Fitzgerald, molto bello, molto elegante e spessissimo ubriaco, capace di essere scortese anche quando commetteva qualche infrazione, quando si sedeva sul cappello di un altro avventore devastandolo, però sempre pronto a colmare i camerieri di mance eccessive, generosissime. E a proposito di Fitzgerald, lei ricorda il duello che ebbe luogo, il duello figurato con Hemingway, anzi Hemingway ebbe un duello praticamente con la moglie, era sempre in lotta con la moglie di Francis Scott Fitzgerald. Sì, Zelda si riteneva un artista fallito, un artista che non riusciva a realizzarsi, e allora il suo unico modo per riconoscersi era tenere solo per sé Francis Scott Fitzgerald, e per farlo lo portava, lo faceva uscire ogni sera, lo faceva ubriacare nei locali di Montmartre in cui suonava il jazz, mentre invece Hemingway, che era stato molto aiutato da Scott Fitzgerald, cercava in qualche modo di allontanarlo dal bere, pur essendo anche lui un grande bevitore, però incontrava sulla sua strada sempre Zelda, implacabile. E oltre il bar naturalmente c'era l'albergo Ritz, dove per esempio incontreremo Proust. Proust arrivava sempre in ritardo alle cene cui aveva invitato numerose personalità, arrivava sempre con un cappotto foderato di pelliccia, anche se fuori faceva caldo ed era maggio, toccava appena i cibi. Anche lui era famoso per le grandi mance. Una volta al momento di uscire aveva chiesto a un cameriere: potrebbe prestarmi 100 franchi? Quando lui glieli aveva dati, Proust aveva fermato, dice: non serve, questi sono per lei. Senta, nel libro incontriamo tanti personaggi stranieri: Orwell, Zweig, Malaparte, Beckett, Joyce, a parte quelli citati, Dos Passos, Remarque, Marinetti, Rilke, Nabokov. Ci sono anche tanti americani. Quelli lì cosa furono? Gli anni della scoperta, in fondo, dopo la guerra degli Stati Uniti, da parte degli Stati Uniti, della Francia e dell'Europa? È un fenomeno molto curioso, perché gli americani arrivano a Parigi, riescono a vivere, a creare solo Parigi, anche se spesso si autodistruggono, però non si legano mai veramente con i francesi, i contatti sono episodici, rimangono una comunità a sé. E invece che cosa successe del rapporto con la Germania? Si ricostituiva in quegli anni un rapporto culturale con la Germania? Era molto difficile il rapporto con la Germania. Un esempio è Walter Benjamin, che passava gran parte del suo tempo alla Biblioteca Nazionale della Rue de Richelieu. I tedeschi arrivavano e però erano approvati dall'esperienza del nazismo, e molto spesso, a parte Thomas Mann, erano poveri. Quindi vediamo anche, non so, Werfel che arriva con Alma Mahler. Alma Mahler era furibonda, perché Alma Mahler era alta, era genomica, era perfetta, sarebbe stata una perfetta polena per la nave pirata del nazismo. Invece l'aveva lasciata per la democrazia, ma ogni tanto scrive sul suo diario parlando del marito, dice Werfel, dice: non so perché sono qui con questo ebreo. In conclusione, che cosa maturò in quei 20 anni a Parigi? Maturò una cosa che poi scomparì del tutto, una stagione incredibile. Sono anni in cui Parigi è stata la capitale del XX secolo. Maturò una grande rottura con la tradizione, che però reggeva soltanto perché erano eccezionali le personalità che erano state in grado di consumarla. Negli anni a venire si vedrà cosa sarebbe successo quando queste grandi personalità sarebbero molto diminuite, sia in qualità sia in quantità. Grazie a Giuseppe Scarafia, autore dell'altra metà di Parigi, La Rive Droite. Buona serata. Buona serata anche a voi. Da ultimo, nel 2019 sono usciti alcuni volumi su Maigret, siamo giunti al 15° volume, ciascuno costa 20 euro. E poi sono uscite 2 raccolte di racconti. Simenon scrisse infatti 178 racconti. Il primo volume è La Cattiva Stella, tradotto da Marina Di Leo, 11 racconti pubblicati nel 1938 su uomini e donne nati o ritrovatisi sotto la cattiva stella, 168 pagine, 12 euro. E poi Il castello dell'arsenico, tradotto sempre da Marina Di Leo. Qui i racconti sono 5 e appartengono ai 33 di carattere poliziesco che Simenon scrisse al di fuori, naturalmente, di quelli dedicati a Maigret. Questi furono raccolti in volume nel 1943 e hanno a protagonista il dottorino, ossia il dottor Jean, un investigatore dilettante dotato di uno straordinario intuito. Costa 12 euro e ha 190 pagine. Ambientato nella stessa città di cui ci parla Scarafia, in quegli anni e in quel milieu artistico-culturale, il libro di un'esordiente americana, Whitney Sharer, L'età della luce, pubblicato da Mondadori, 332 pagine, 20 euro, tradotto da Manuela Faimali. Questo è un libro che si riferisce a una figura storica, la fotografa Lee Miller, vissuta tra il 1907 e il 1977, di cui appunto il libro di Scarafia parla. La Miller era una modella famosissima di New York, dove conduceva una vita molto brillante. A un certo punto approda a Parigi nel 1929 in cerca di una nuova direzione per la propria vita. Vuole affermarsi come autentica artista, vorrebbe fare la fotografa, ma i primi passi sono difficili, finché dopo 3 mesi di permanenza casualmente conoscerà un gruppo di persone che la introduce nell'ambiente degli intellettuali dell'epoca, i surrealisti, e soprattutto appunto Man Ray, del quale la Lee riesce a diventare assistente e non soltanto. Con Man Ray Lee Miller inventerà la tecnica della solarizzazione, che darà una svolta all'arte fotografica ormai famosa. La Miller sarà una delle pochissime donne a seguire da fotografa la Seconda Guerra Mondiale. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva solo in podcast. Vai su radio24.it nella sezione Scelti per voi per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Un libro tira l'altro. Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai, di qualcosa. Babbo! Svegliatevi! Mi è nato un figlio! Così, da un giorno all'altro? Da un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Guarda, Pinocchio, guarda. 1 e 2. Se fai come me, fra 2 o 3 giorni già puoi camminare da... Pinocchio! Abbiamo sentito Roberto Benigni che interpreta Geppetto nel film Pinocchio di Matteo Garrone, nel burattino interpretato da Federico Ghielapi. E segnalo in questa occasione 3 edizioni per riaccostarci a questo grande libro da leggere, certamente anche da grandi. La prima edizione è quella di Rizzoli, adatta per gli adulti, perché il testo è scritto a mano dall'artista Marcello Iori, che illustra anche il volume, 388 pagine, 34,90 euro. Poi c'è un'altra edizione di grande formato, tratta e ridotta di circa la metà dall'originale di Collodi, illustrata da Justine Brax, che è una disegnatrice francese e che fa parte della collana diretta da Benjamin Lacombe, che presenta i grandi classici in versione aggiornata e affidati a giovani disegnatori. Questo costa 25 euro, 152 pagine. Poi abbiamo un'edizione forse meno vistosa, ma integrale, illustrata da un grande classico dell'illustrazione italiana, cioè Iacovitti. Questa è pubblicata da Scolè, 174 pagine, 19,50 euro, ed è introdotta dallo scrittore Giuseppe Lupo, parte dal famoso parallelo che il cardinale Giacomo Biffi aveva lanciato tra Pinocchio e Cristo e che Lupo considera attentamente. Lupo vuole anche liberare Pinocchio qui dall'interpretazione moralistica che spesso se ne è data e spiega questa diversa lettura facendo riferimento proprio alle illustrazioni di Iacovitti, che aveva cominciato a illustrare Pinocchio già nel 1943. Un Pinocchio alternativo a quello tradizionale è quello di Alessandro Bilotta ed Emiliano Mammucari ed è un'opera a fumetti del 1999 che ritorna 20 anni dopo, pubblicato da Star Comics, 48 pagine, 12,90 €. Si intitola Povero Pinocchio, storia di un bambino di legno ed è alternativo proprio perché Pinocchio qui non vuole affatto diventare un bambino. Questo libro è pubblicato in due versioni, la versione standard con l'introduzione che racconta della nascita di questa storia a fumetti e con un due interventi degli autori. E poi c'è un ulteriore intervento a firma dello sceneggiatore fumettista Mauro Uzzeo che racconta in quale humus 20 anni fa nacque quest'opera. Poi c'è un'edizione invece deluxe, 30 €, 72 pagine, che contiene anche la sceneggiatura originale. Agli appassionati di libri antichi segnalo un intero catalogo dedicato a Pinocchio dalla libreria antiquaria Paolo Bongiorno di Modena. Gli appassionati potranno qui trovare diverse edizioni importanti di Pinocchio, la prima del 1883 dell'editore Paggi di Firenze, che per la cronaca costa 28.000 €, e poi l'edizione originale, quella apparsa ancora prima, perché Pinocchio apparse a puntate tra il 1881 e il 1883 sul giornale per i bambini. La raccolta è quasi completa e costa 3.900 €. E poi nel catalogo troverete altre edizioni, come dicevo, e altri titoli di collodi a prezzo molto più accessibile. Woman of Ireland ci introduce a uno dei grandi capolavori di Stanley Kubrick, Barry Lyndon, perché voglio parlare di due libri dedicati in ambito cinematografico proprio a Kubrick. Il primo è quello sulla musica, La musica secondo Kubrick, di Sergio Bassetti, studioso del rapporto tra immagini e suono, pubblicato dall'Indau, 192 pagine, 19 €. Il secondo è di Flavio De Bernardinis, esperto e docente di cinema, che ha scritto L'immagine secondo Kubrick, 154 pagine, 17 €, sempre per l'Indau, nel quale l'autore propone la tesi secondo la quale Kubrick in realtà fosse convinto che l'immagine fosse la fotografia. Come aveva detto lui stesso a Jack Nicholson, fare un film non è fotografare la realtà, ma fotografare la fotografia della realtà. E forse proprio per questo, aggiunge l'autore, il cineasta Stanley Kubrick è stato guardato con sospetto dalla cinefilia storica. E andiamo un po' indietro nel tempo con un altro grande mito cinematografico. Darling, promise me something. Anything. Don't ever leave me. No, of course not. Just try to forget that there is anyone but me. I want to tell you something. No matter what happens, no matter how long it is, I'll always be waiting for you. If you want to come back. Questa era Eddie Lamar nel film Il molto onorevole Mr. Polam, il celebre film di King Vidor del 1941, e alla Lamar è dedicato il libro La diva geniale di Mary Benedict, un'avvocata di New York appassionata di storie e biografie. È pubblicato da PM, 312 pagine, 18,50 €, tradotto da Anna Martini. Hedy Kissler, questo era il vero nome dell'attrice, era una bellissima donna austriaca sposata a un commerciante d'armi. E proprio l'autorevolezza del marito l'aveva messa in salvo dalle prime persecuzioni antisemite. Ma il matrimonio non è felice, Hedy si rifugia perciò nel 1937 negli Stati Uniti, anche perché ha paura di essere tradita dal marito, e qui inizierà la sua carriera a Hollywood, che ben presto conquisterà. Ma Hedy non è soltanto una bella donna, la sua intelligenza è profonda e curiosa e ha grandi interessi verso la scienza, e allora cerca di mettere queste doti al servizio degli sforzi bellici contro il nazismo, cercando di realizzare un'invenzione che si ispira ai progetti dei quali aveva sentito parlare al marito, il quale ne parlava appunto incurante nelle sue conversazioni anche di lavoro della presenza della moglie. E da questo il titolo originale del libro, che suona The Only Woman in the Room, la sola donna nella stanza. Ne emerge un aspetto inatteso e affascinante che ci rivelerà come la Lamar sia stata niente meno che un'antesignana del telefono cellulare. I don't want to wake you, but I'd like to tell you that I love you. questo l'avrete riconosciuto, Elton John, un mito a noi contemporaneo di cui esce l'autobiografia intitolata semplicemente Me, tradotta da Michele Piumini e Valeria Gorla per Mondadori, 376 pagine, 24 euro. Questo è un documento molto franco su una vita fatta di successi e di eccessi che hanno fatto di Elton John un grande artista e una star discussa e acclamata. Qui Elton John si descrive con sincerità, partendo dal fanciullesco entusiasmo per Elvis Presley, fino agli sviluppi di una carriera prodigiosa e di una vita personale condizionata a un certo punto dalle dipendenze, agli stupefacenti, tormentata dal desiderio di avere dei figli con il compagno, dominata dalle amicizie, in certi casi straordinarie e tragiche, come quella con Versace, con la principessa Diana, e con tantissime altre persone che hanno fatto la storia dello spettacolo, della cultura e non soltanto negli ultimi decenni. Dopo il 2019 dominato da Leonardo, il nuovo anno sarà dominato da Raffaello, che nacque il 6 aprile del 1520. Ce ne occuperemo certamente lungo il corso di quest'anno, ma intanto vi segnalo un primo titolo di un giornalista del Sole 24 Ore che molti di voi conoscono e apprezzano, talora ospite di questa trasmissione, Marco Quarminati, che pubblica uno dei primi titoli di una nuova collana editoriale, I libri del Sole 24 Ore. Il libro si intitola Raffaello pugnalato, 116 pagine, 14,90 euro, ed è arricchito da una serie di illustrazioni a colori. Questo è un utile introduzione a Raffaello. Si parla qui della vita avventurosa, come la definisce l'autore, e dei capolavori dell'artista attraverso articoli e recensioni raffaellesche pubblicate sul quotidiano, soprattutto sul Sole 24 Ore domenica, negli ultimi 10 anni, assieme ad altri testi dello stesso Carminati provenienti da altre fonti. Terremoti, furti, saccheggi, naufragi, follie, pugnalate non risparmiarono le opere più celebri di Raffaello, e questi racconti, concludono l'autore, ci danno due insegnamenti. Il primo, di mettere in guardia sulla grande fragilità e vulnerabilità delle opere d'arte, ma soprattutto la seconda, quella di poter conoscere Raffaello divertendosi un po'. Restiamo in ambito artistico con un libro molto importante sui grandi artisti dell'Otto-Novecento, che si collega anch'esso a due mostre ancora visitabili. Il libro è quello di Julian Baines, scrittore inglese, che pubblica anche con gli pseudonimi di Dane Kavanagh, in questo caso scrive dei gialli, e Edward Parghi, è un polemista e critico letterario, di cui esce adesso Con un occhio aperto, pubblicato da Einaudi, 286 pagine, 32 euro, tradotto da Daniela Fargiò. Questo libro è dedicato ad alcuni sommi dell'arte degli ultimi due secoli: Géricault, Delacroix, Courbet, Manet, Fantin-Latour, Degas, Redon, Bonnard, Vuillard, Vallotton, Braque, Magritte, Oldenburg, Freud e Hodgkin. E alcuni di questi protagonisti li troviamo in importanti mostre in corso. Per esempio la mostra Bonnard to Vuillard, The Intimate Poetry of Everyday Life, che è alla Phillips Collection a Washington DC ed è dedicato appunto all'arte dei Nabis. È una mostra curata da Elsa Smithgall e dura fino al 26 gennaio e ha un catalogo pubblicato da Rizzoli Electra che costa $60. A Roma invece, fino al 23 febbraio, al Chiostro del Bramante, possiamo visitare la mostra Bacon, Freud, la Scuola di Londra, curata da Elena Crippa, con il catalogo Schirà, 136 pagine, 32 euro. Tornando al libro di Baines, l'autore racconta qui delle sue passioni, dalle quali troviamo molte illustrazioni che hanno consolidato nel tempo un interesse per l'arte che in gioventù era del tutto assente e che si è formata attraverso appunto la contemplazione di alcuni grandi capolavori. L'arte per l'autore all'inizio era capacità di trasformare il reale, poi Baines scopre che il realismo, lo cito, poteva essere altrettanto pregnante e perfino imprevedibile, che anch'esso implicava scelte, organizzazione e fantasia, e pertanto poteva essere dotato pari qualità trasformativa. Soprattutto l'autore scopre che il modernismo è complesso e non è certo meraviglioso in tutte le sue parti, come scrive egli stesso, e anzi scopre come l'arte, prevalentemente francese, fosse passata dal romanticismo al realismo e dal realismo al modernismo in un lasso di tempo che va dal 1850 a esattamente 100 anni fa, al 1920. E di questo periodo appunto ci parla Benz, spingendosi fino ai giorni nostri, e lo fa rivendicando l'importanza della parola nell'affrontare l'arte visiva. Egli scrive infatti: rimaniamo inguaribilmente creature verbali che amano spiegarsi le cose, formarsi delle opinioni, dibattere. E spesso l'illustrazione di un particolare apparentemente insignificante, per esempio la posizione dei piedi dei soldati nell'esecuzione dell'imperatore Massimiliano di Manet, diventa per l'autore un'occasione per espandere, come è stato notato, questo singolo fatale istante in un ampio racconto storico. Seguendo il suo ragionamento, in questo caso per esempio, Barnes conclude che questi carnefici, cioè i fucilatori, non sono un plotone di professionisti della morte come in Goya, sono soldati che svolgono le proprie mansioni quotidiane, tra le quali capita che si verifichi anche l'uccisione di un imperatore. Nell'ambito della mostra che ho citato su Bacon e Freud nasce di Costantino D'Orazio, che è uno storico dell'arte e curatore del Museo Canonico di Roma, il volume Bacon e Freud, il lato oscuro di Londra, 58 pagine, 9 euro, che presenta i protagonisti di un periodo particolare della Londra artistica, dominata da sei importanti pittori, oltre a quelli già citati, e cioè Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paul Arrigo. E scrive D'Orazio, quella Londra, una Londra capitale di contraddizioni, dove l'arte ci svela il nostro lato oscuro e noi non possiamo fare a meno di guardarlo. E dei quadri di Freud l'autore scrive: quadri nati nell'intimo di piccoli studi alle periferie di Londra, tra una birra e una sigaretta, che oggi sono riconosciuti come capolavori assoluti della storia dell'arte del nostro tempo, perché non rappresentano soltanto volti dipinti in modo molto personale, ma raccontano storie, vicende umane lunghe mezzo secolo, in cui noi tutti possiamo riconoscerci. E a questo punto... Il confettino. Per la notte che sta per cominciare, d'obbligo La Befana di Sandra Nelson, illustrata da Sébastien Pellon, tradotto da Laura Molinari e Vera Minazzi per Yakabook, 14 euro. Un Nicola, scavezzacollo di Montepulciano, scopre non solo che la Befana esiste, ma che questa può davvero insegnarci a stare al mondo in un modo diverso e migliore. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, librochiocciola24.it. Vi è il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata, buon anno e vi do appuntamento alla settimana prossima.